Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è la terza parte di Eclettica di questa 26esima settimana della 12esima stagione in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Non solo frequenze ormai, ma ci sono tante possibilità grazie a internet, lo streaming, il peer casting e il podcasting, dove i primi due richiedono la contemporaneità, quindi l'ascolto esattamente quando la trasmissione viene messa in onda, e quindi alle 22 di tutte le sere tranne il lunedì sera, oppure le pillole in altro orario, 10:15, 14:45 durante il giorno dal lunedì al venerdì. Invece il podcasting è qualcosa di diverso, qualcosa che vi permette di ascoltare Eclettica quando preferite, con il supporto che preferite, ma soprattutto riuscite ad avere la trasmissione poi da conservare in alta qualità, e spero che questo, come ho già detto una volta, comunque non faccia morire del tutto il mercato clandestino, diciamo così, mi permetto di definire in questo modo scherzosamente, di cassette che si era creato nel corso del tempo. Una Eclettica di questa settimana che nella sua terza parte si aprirà in maniera un po' particolare, poi vi spiegherò con estremo dettaglio che cosa vi siete ascoltati, ma come sempre prima della musica ci sono le parole. Ratispone anno domini mense decembri, cronica Baudolini cognomento de Aulario. Io Baudolino di Gagliaudo degli Aulari, con la testa che somiglia a un lione, alleluia siano rese grazie al Signore che mi perdoni. Abbeo facto il rubamento più grande della mia vita, ciò è preso da uno scrigno del vescovo Otto molti folii, che forse son cose della cancelleria imperiale, e te li ho gratati quasi tutti, meno che dove non veniva via, e adesso ho tanto pergamino per scriverci quel che voglio, cioè la mia cronica, anche se non la so scrivere in latino. Se poi scoprono che i folii non ci sono più, chissà che Cafarnaum viene fuori, e pensano che magari è una spia dei vescovi romani che vogliono male all'imperatore Federico, ma forse non gli importa a nessuno in cancelleria. Scrivono tutto anca quando non serve, e chi li trova questi folii, se li infila nel bus del Q, non se ne fa una got. Questo era l'incipit di Baudolino di Umberto Eco. volevo farlo, ma a me è venuto automatico battere le mani da manuale. Loro sono messicani, Rodrigo e Gabriela, messicani di origine, anche se adesso sono ormai adottivi irlandesi. Infatti sono stati scoperti da Damien Rice, e può darsi che qualcuno fra voi proprio abbia avuto la possibilità di vederli dal vivo in compagnia di Damien Rice ad aprire i suoi concerti. Rodrigo e Gabriela, Tamakuni e Amuleto è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, colpiscono per il pathos con cui suonano le loro canzoni, che spesso sono cover che scelgono dal repertorio rock. Incidono per la Ruby Works e il loro produttore, udite udite, John Leckie, quello dei Radiohead, degli Stone Roses, dei New Order, dei Muse, ecco, è il produttore di questi musicisti e che adesso ha scommesso anche il suo nome su Rodrigo e Gabriela. Ve li siete ascoltati in apertura della terza parte di Eclettica di questa sera. Penso che appunto il battito delle mani venga assolutamente in maniera automatica. Dal Messico ci spostiamo ora in Italia. Bubu 7, te, questo è il titolo del disco dei Masoco, band romana di cui per anni ho sentito parlare ma mai, fino all'estate scorsa, avevo avuto la possibilità di vederli dal vivo, che poi è sempre il momento della conferma, e questa conferma l'ho avuta. È un gruppo che comunque ha il suo valore, non eccelso ma neanche basso, è un buon gruppo medio, posso definirli così, spero che non me ne vogliano. Escono per Snowdonia con questo nuovo Bubu 7, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia numero 5, che ha per titolo Cool. Se questa sera per caso telefono, le chiedo se vuole uscire con told you once, nobody screws with me. Well, maybe you'll meet the right girl and all that'll change. We'll be right back. Ogni tanto per la sub pop incidono anche gruppi di Seattle. Ogni tanto succede ancora. Band of Horses è il nome della band, appunto, di Seattle, che è uscita nel mese di marzo, per la precisione il primo giorno di primavera, con Everything All the Time, dal quale già da un po' di tempo ci stiamo ascoltando questa The Great Salt Lake. Niente male, a me non dispiace questo pezzo. È uno dei pochi dischi sub pop usciti di recente che mi fa piacere ascoltare anche per conto mio, per i miei ascolti privati non finalizzati alla scelta di cosa mandare in onda, se questo può essere un indice più o meno significativo. Rimaniamo negli Stati Uniti, ma ci spostiamo da Seattle a New Orleans, città da cui provengono i Cowboy Mouth. Prima vi dicevo di quando ho visto l'estate scorsa finalmente i Masoco, invece per quanto riguarda i Cowboy Mouth il ricordo va veramente molto molto indietro nel tempo, penso abbondantemente più di 10 anni, tanto che li avevo persi di vista per qualche anno e temevo che si fossero sciolti. Ma la band di New Orleans prosegue, anzi è in uscita con un nuovo disco dal titolo Voodoo Shop, molto molto ispirato ovviamente ai fatti di New Orleans dell'anno scorso. Ci sono dei brani i cui testi sono proprio legati alle esperienze vissute a chi si trovava in quella città in quei giorni. Però il brano che vi voglio far ascoltare è un altro brano di cui è soprattutto il testo avermi colpito. Allora, vi dico subito che è un brano che ha per titolo Joe Strummer, ma non è un brano che parla di Joe Strummer, è il brano che parla di come non si possa avere una storia seria con una ragazza che non sappia neanche chi Joe Strummer sia. E il pezzo è veramente esilarante, non so se riuscirete a cogliere, la loro pronuncia è buona, se riuscirete a cogliere tutte le finezze ascoltandolo, ma via internet sono sicuro che lo troverete facilmente, troverete frasi come The Clash saved my life. Questi sono i Cowboy Mouth. She had all the tattoos and the piercings. Hates everything, says everybody's wrong. She dressed like she slept with Guns N' Roses, but I busted her singing all the boy band songs. She had to go simply because, and I let her go like she never was, 'cause I didn't know. She didn't know who Joe Strummer was. Hey! At night when we stood in line for hours, waiting to see my favorite punk rock band, I bled with the passion and the power, but she's only there for all the fashion trends with her clueless friends. She had to go. Yeah. E siamo così arrivati anche alla chiusura della terza parte di Eclettica per questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Ci siamo avvicinati a questa assieme a Mark Ronson e Alex Greenwald, che rifanno Just da parte dei Radiohead. C'è un intero album Exit Music, ma noi ci stiamo concentrando per il momento su questa traccia, ma sono sicuro che ce ne saranno anche delle altre che rientreranno nelle future playlist di Eclettica. Vi ricordo, per averle basta essere parte della lista nera, e per farlo senza incappucciarsi mandate un mail a giulio@radiorockfm.com. Gomo chiude questa terza parte dal Portogallo. in uscita grazie a Audioglobe e a Home Sleep, o meglio sia Santeria e Home Sleep, che si sono messi assieme, un best of che per un artista ai suoi inizi non è male come titolo di album. Il brano è I Wonder. Ci si risente nella quarta parte. Like a thunder, I wonder, wonder why you didn't leave me sooner for that guy and made me feel so low while you were high. I never meant to hurt you so much. I thought my love was enough to all the way. I could hear him say it feels much better if you lick it slow. Maybe it is time to make a change. You think about leaving to another stage, but then you realize that you couldn't fake. You said you were sorry, but now it's too late. And I wonder, you came into my life like a thunder, but then you turned me down. And I wonder, came into my life like a thunder. I wonder, wonder why you didn't leave me sooner for that guy and made me feel so low while you were high. I never tried to share my life with someone Eclettica, fine della terza parte.